Salvadanaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salvadanaio. Io lo so che sono tempi un po' indigesti per la ripresa dalle vacanze, è dura per tutti. Abbiamo trovato la cassetta della posta con una marea di scadenze e bollette arretrate. Per molti di noi c'è anche da affrontare un altro impegno, l'appuntamento con il commercialista e con il modello unico. Il 30 settembre è l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del modello 2010. Quindi contribuenti, intermediari e professionisti hanno ancora qualche settimana di tempo per effettuare gli ultimi controlli ed apportare, se lo riterranno opportuno, eventuali modifiche. Lunedì scorso il Sole 24 Ore ha dedicato un lungo approfondimento a questa scadenza, indicando le 5 mosse per gli ultimi controlli e le ultime verifiche da fare prima della consegna definitiva. Allora, se avete delle incertezze, stamattina le potrete confrontare con noi e con uno dei curatori, soprattutto di questo vademecum, pubblicato dalle pagine lunedì scorso del Sole 24 ore di norme e tributi. Io saluto e ringrazio di essere ritornato con noi dopo le vacanze, perché anche prima lo avevamo disturbato per altri temi. Dottor Giovanni Valcarenghi, esperto in materia fiscale per il Sole. Dottor Valcarenghi, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere con noi questa mattina a ricordarci, insomma, che abbiamo degli impegni molto precisi e quindi dobbiamo subito rimettere la testa su queste incombenze, e anche quelle fiscali sono molto importanti. 800 24 0024, chiamateci, prenotate i vostri interventi al nostro numero verde oppure scriveteci al 349 238 6666. La borsa, prima di riprendere la nostra chiacchierata sulle scadenze fiscali, la borsa stamattina ha avuto veramente un andamento molto interessante, perché dopo l'incertezza di ieri è stata per tutta la giornata negativa, ha avuto un piccolo scatto sul finale dopo l'indicazione della fiducia dei consumatori degli Stati Uniti. Oggi è partita proprio a rallentatore. È partita male, c'era stato questo rimbalzo tecnico sul Giappone, il Nikkei più 1,17%, che ha beneficiato di dati economici che sono arrivati per la verità da altre aree. C'è stato il buon dato per esempio sul prodotto interno lordo australiano, che è stato migliore delle attese e ha sostenuto anche il Giappone. E poi la partenza dell'Europa è stata contrastata, alcuni indici hanno navigato a lungo in territorio negativo, Piazza Affari compresa, che perdeva più di mezzo punto, e poi improvvisamente a metà mattina cambio di direzione e c'è anche un progressivo rafforzamento su tutti i versanti geografici. Londra guadagna 1,5 punti, la miglior piazza d'Europa in questo momento è Parigi, che sta segnando un più 1,81, Francoforte più 1,17, Milano più 1,52% sul FTSE MIB. Peraltro è arrivato anche l'indicatore manifatturiero dell'Europa, che è risultato in calo. C'è il record da 2 mesi a questa parte del prezzo dell'oro a $1,250 l'oncia, quindi la corsa verso i beni rifugio tradizionalmente porta a disinvestire dal mercato azionario. Questa mattina vediamo invece tutto un andamento contrario rispetto alle regole consuete. L'euro riconquista in questo momento la soglia di 1,28 sul dollaro, quindi abbiamo un bel recupero anche della moneta unica europea, probabilmente merito anche del ridimensionamento, anche se è stato abbastanza limitato negli ultimi giorni, della corsa dello yen. Milano stamattina punta su STM più 3,5%, su Bulgari più 3,43% grazie ai conti pubblicati 2 giorni fa dal concorrente Hermes. Azimut più 3%, Exor più 2,62%, Exor insieme a Fiat aspettano i dati sulle matricolazioni auto per il mese di agosto. Fiat guadagna l'1,84%, anche se i dati dovrebbero essere pessimi a giudicare dalle anticipazioni degli ultimi giorni. Nessun titolo negativo in questo momento a Piazza Affari, il peggiore è il Banco Popolare, che sta guadagnando lo 0,40%, il titolo è debole nonostante la notizia della sospensiva sul rimborso da 80 milioni di euro ottenuti in primo grado dal fondo inglese Egerton per le perdite negli investimenti in banca Italease. Terna più 0,47, Ansaldo più 0,7 con la Popolare di Milano, e poi c'è grande attenzione intorno alle vicende di Unicredit, perché c'è la discesa in campo della Consob per sondare il peso dei soci libici, che forse vorrebbero crescere. In questo momento hanno intorno al 7%, ma insomma vedremo poi come si concluderà questo monitoraggio dell'autorità di controllo sui mercati. È tutto per la borsa, andiamo al tema di oggi, scadenze fiscali il 30 settembre, traguardo in vista per il modello unico. Mm. Una delle scadenze più urgenti al ritorno dalle ferie è senz'altro quella per la trasmissione telematica del modello unico per la dichiarazione dei redditi, fissata al 30 settembre. A intermediari e professionisti restano ancora poche settimane, quindi, per effettuare gli ultimi controlli. Ad esempio, assicurandosi di aver compreso nella dichiarazione tutti i contribuenti obbligati a presentare il modello e verificando la corrispondenza delle imposte versate con quelle effettivamente dovute. In entrambi i casi si potrà porre rimedio ad eventuali inesattezze ricorrendo al ravvedimento operoso o, nel caso di versamenti eccedenti, con la compensazione. È ancora possibile poi, entro il 30 settembre, rivedere alcune scelte già fatte. È il caso di chi modifica la dichiarazione di reddito complessivo e di chi decide di adeguarsi alla ricostruzione statistica degli studi di settore o, in alternativa, sceglie di fornire una spiegazione dei motivi per cui giudica inadatta la propria collocazione. Attenzione anche ai quadri descrittivi. Non incidono direttamente sulla quantificazione dell'imposta, ma si rischiano sanzioni anche con errori o omissioni in questi campi. Particolarmente in evidenza quest'anno il quadro in cui vanno indicate attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero. Infine, sarà bene verificare di aver ottenuto, entro 30 giorni dall'invio, la ricevuta di avvenuta ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, unico documento che attesta la corretta trasmissione del modello. Non solo stamattina devo affrontare un tema, come ho definito prima, un po' indigesto, ma anche affrontare due tecnici in regia milanisti che me ne stanno dicendo di tutti i colori. Vabbè, per la Juventus quest'anno parte male, esattamente come è finita, per cui c'è poco da infierire, caro Roberto e caro Rudy. Cambiamo argomento. Valcarenghi, migliori un po' lei il mio umore questa mattina, anche se per la verità magari non riusciremo a farlo più di tanto nei confronti di chi ci ascolta, dei contribuenti che devono entro qualche giorno incontrare il commercialista per adempiere appunto a questo impegno, l'invio telematico del modello unico 2010, anche se tutto è stato fatto correttamente. Dottor Valcarenghi è proprio il commercialista, il professionista abilitato appunto che dovrà farlo, non ci dovrà pensare il contribuente, anche se metto un altro anche, magari qualche contribuente che deve fare una dichiarazione dei redditi non particolarmente, che ha fatto una dichiarazione dei redditi non particolarmente complessa, magari può anche lui avventurarsi in questo confronto con l'Agenzia delle Entrate, no? Sì, è vero, diciamo che la scadenza del 30 settembre prevalentemente interessa gli intermediari abilitati, quindi i professionisti che dovrebbero già aver ricevuto l'incarico da parte dei loro clienti e dovrebbero già averli contattati per effettuare i versamenti che sono ormai lasciati alle spalle. Pensiamo alle scadenze di giugno, luglio e agosto quest'anno, quando si è messo mano al portafogli per versare le eventuali imposte dovute. Non di meno il 30 settembre potrebbe essere anche una data da fissare sul calendario per quei privati che, avendo una dimestichezza con le procedure telematiche dell'agenzia, possono scegliere tranquillamente di inviarsi in proprio il modello. È una scelta, è una situazione per la verità non molto diffusa, ma è comunque certamente possibile. Tra l'altro io prima citavo il fatto che questa è una facoltà, cioè l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del modello unico da parte del singolo contribuente se fa una dichiarazione dei redditi non particolarmente complessa. Magari questi contribuenti, dottor Valcarenghi, si sono avvalsi della facoltà di presentare il cosiddetto unico mini, anche se mi risulta, sulla base di trasmissioni che abbiamo fatto in precedenza, che non è un modello largamente utilizzato. Perché? Ma probabilmente perché non è nient'altro che una sorta di sintesi della usuale dichiarazione dei redditi, privata di alcuni quadri che probabilmente statisticamente l'agenzia ha riscontrato non essere molto numerosi, e quindi forse per facilitare la lettura delle istruzioni, le indicazioni per la compilazione, è stato scelto quest'anno di adottare questo mini modello. Aggiungo io, forse maliziosamente, anche per mettere l'Italia un po', a far salire la posizione dell'Italia nei confronti degli altri paesi quando si fanno i confronti sul numero delle pagine per le istruzioni delle dichiarazioni dei redditi. Abbiamo un sistema non facciamo, un po' complicato. Ecco, non facciamo una gran bella figura, se mi sta dicendo? C'è un sistema tributario abbastanza complicato e quindi anche la dichiarazione, che è l'ultimo passo per chiudere l'annualità, ne tiene conto, insomma. Ricordo ancora gli ascoltatori che volessero farlo che possono intervenire in diretta chiamandoci all'800240024 oppure scrivendoci al 349-238-6666. Noi chiaramente siamo partiti dal dato di cronaca, cioè dalla trasmissione telematica del modello unico unico 2010 entro il 30 settembre. Se però avete in mente anche qualche altro quesito di natura fiscale come singoli contribuenti e che magari non avete avuto modo di chiarire perché avete accantonato giustamente il problema in estate, insomma, con Giovanni Valcarenghi siamo a disposizione anche per questo. Io ho citato Valcarenghi il vademecum che lei ha firmato insieme a Sergio Pellegrino lunedì scorso sulle Sole 24 Ore, le 5 mosse per gli ultimi controlli e verifiche a un mese dalla scadenza per la dichiarazione. Quello che volevo ricordare e precisare è che il lavoro pubblicato era prevalentemente rivolto ai professionisti più che ai contribuenti, tanto che tra i suggerimenti che troviamo tra le righe di questo pezzo c'è anche questo che vado a leggere. L'occasione, diciamo da qui al 30 settembre, è buona per i commercialisti, quindi per i professionisti, per effettuare una verifica in relazione all'intero parco clienti al fine di evitare dimenticanze e definire le posizioni sospese di coloro che non hanno consegnato per tempo la necessaria documentazione. Perché potrebbe essersi prodotto questo ritardo nella consegna della documentazione necessaria per questo adempimento, Valcarenghi? Probabilmente ci sono contribuenti più attenti al momento della dichiarazione, altri che forse erano o avevano la testa occupata in altre questioni, quindi si sono decisi ad accantonare il problema dichiarativo a un successivo momento. Devo anche dire che a volte ci sono delle posizioni di pigrizia, se posso definirle così, che derivano dal fatto che c'è qualche contribuente che sa di non dover pagare nulla, quindi non si è affrettato a presentare la documentazione prima dell'estate, sapendo che il momento della trasmissione, quindi della chiusura vera e propria del modello, è slitta al 30 settembre. Quindi insomma è proprio questo il periodo, il mese in cui si debbono definire queste posizioni. Quindi insomma diciamo che per i commercialisti il mese di settembre non è proprio un mese di riavvio dopo le vacanze tranquillo, mi sembra piuttosto intenso, allora, visto che tante volte si devono richiamare all'ordine anche contribuenti distratti. Sì, questo è vero, poi per carità insomma ci sono forse professionisti più efficienti e più attenti che hanno già chiuso tutta la partita dichiarazioni prima delle vacanze. Solitamente esperienza, insomma, confronto con i colleghi mi fa notare che invece tante cose, quelle che non incidono proprio sulla quantificazione del debito dell'imposta, vengono rinviate al rientro dalle vacanze. Ricordiamo qualche informazione da dare, ricordiamo che il modello che va trasmesso telematicamente entro il 30 settembre, unico 2010, è quello relativo alla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2009, però la scadenza del 30 settembre, se non ho capito male, perché non è un argomento con il quale mi confronto in maniera molto agevole, ricordiamo che la scadenza del 30 settembre è utile anche se nel frattempo, magari così un po' rovistando in qualche cassetto, avessimo magari scoperto documentazione vecchia che ci ha dato modo di così evidenziare il fatto che è necessario magari fare degli aggiustamenti sulla dichiarazione dei redditi in corso, quindi, oppure compensazioni da farci riconoscere da parte del fisco su una dichiarazione dei redditi vecchia, per esempio risalente al 2008, quindi settembre ci potrebbe dare modo anche di fare questo, dottor Valcarenghi? Sì, dall'anno 98 grosso modo il fisco ha utilizzato questo nuovo meccanismo concedendo ai contribuenti la possibilità anche di rivisitare le dichiarazioni che sono state presentate. L'ipotesi più carina che possiamo fare, giusto per cercare di addolcire un po' il tema del fisco e delle imposte, è quella di ipotizzare il caso di un contribuente che non abbia fruito nell'anno 2008, quindi nella vecchia dichiarazione dei redditi, di alcuni documenti che gli possono dare diritto a uno sconto fiscale. Nulla è perduto perché proprio entro il 30 settembre del 2009 è possibile ricostruire una nuova dichiarazione, sia pure con un anno di ritardo, ripresentarla al fisco che riconosce liberamente l'eventuale maggior credito che potrà essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione. Potremmo in definitiva dire, dottor Valcarenghi, che l'obiettivo di Unico forse è proprio questo, no? Sistemare un po' tutte le situazioni che magari non è possibile presentare in maniera corretta al 100% nei tempi che il fisco ci chiede normalmente. Sì, è vero, questo è vero, anche se va riconosciuto all'amministrazione che almeno qui da noi abbiamo 9 mesi di tempo chiuso l'anno fiscale per provvedere alla dichiarazione, quindi di tempo ce n'è anche se gli adempimenti e i quadri della dichiarazione sono molto ricchi e molto numerosi, però insomma di tempo ce n'è, ma abbiamo comunque un arco temporale di un anno anche per rimediare. Potrebbe essere un rimedio noi l'abbiamo vista sotto l'aspetto positivo a favore del contribuente, ci potrebbe essere anche il caso del rimedio a favore del fisco quando qualcosa non è stato correttamente fatto. In questo caso poi scattano tutti i ravvedimenti da fare e noi ne parleremo nella seconda parte di Salvadanaio. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Vedo già qualche ascoltatore che si è prenotato, adesso cominceremo molto volentieri a sentirvi tra qualche minuto. Peraltro non abbiamo neanche fatto un quadro chiaro su tutti quei contribuenti che sono obbligati alla presentazione del modello unico e quelli per i quali invece questa è una facoltà, una possibilità. Oggi Salvadanaio, è il primo settembre, vi richiama all'ordine su tutti gli impegni che dovrete naturalmente affrontare nelle prossime settimane. Già qualcuno ne abbiamo toccato nei giorni scorsi, magari un piccolo check-up del proprio portafoglio di investimenti, dei propri risparmi, quali bollette sono rimaste indietro, chissà in che condizioni dal ritorno dalle vacanze abbiamo trovato la nostra cassetta della posta. Oggi vi richiamo all'ordine su un tema un po' indigesto, e ormai lo sto definendo così dall'inizio della puntata, la dichiarazione dei redditi, e perché ritorniamo su questo argomento. Abbiamo preso spunto da un tema toccato lunedì scorso dal Sole 24 Ore. Il tema è la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2009 attraverso il modello unico. Questa è un'incombenza a cui dobbiamo pensare entro appunto il 30 settembre, e quindi dal rientro dalla pausa estiva intermediari e professionisti sono chiamati agli ultimi adempimenti per completare l'indicazione di tutti i dati necessari appunto per poter espletare questa incombenza, chiamiamola così. Quindi molti commercialisti stanno richiamando all'ordine anche i contribuenti assistiti, molti altri invece magari non hanno bisogno di farlo, ma in ogni caso è il momento appunto di fare una verifica anche di tutta la clientela che i commercialisti hanno per capire chi è a posto, chi invece è rimasto indietro magari con un po' di documentazione. Stamattina sta aiutandoci ad orientarci in questo terreno che è un po' complesso, un po' delicato per molti di noi, il dottor Giovanni Valcarenghi, esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore. Abbiamo già anche delle domande di alcuni ascoltatori. Prima di sentire Antonella da Brescia, che saluto, dottor Valcarenghi, volevo proprio ritornare ad una cosa che magari andava specificata all'inizio ma non abbiamo fatto. Quali sono i contribuenti che sono obbligati alla presentazione del modello unico e per quali invece questa è una facoltà? Io sono una lavoratrice dipendente. All'inizio dell'anno, tra febbraio e marzo, la mia azienda mi dà il CUD sulla base della certificazione unica, della certificazione appunto dei redditi percepiti l'anno precedente. Faccio poi il mio 730 per capire se ho delle spese da detrarre, da dedurre e quant'altro. Eventualmente a che cosa mi può servire presentare unico a settembre? Ecco, diciamo che il modello 730 e il modello unico sono la medesima forma di dichiarazione. Il modello 730 è molto utile, molto anche così diciamo utilizzato, perché dà la possibilità di ricevere immediatamente il rimborso sotto forma di maggiorazione dello stipendio qualora il contribuente sia in una posizione di credito. Questa situazione invece con il modello unico non è possibile, perché bisogna attivare una istanza di rimborso e quindi i tempi vengono più lunghi. Quindi chi ha fatto il modello 730 ha già correttamente adempiuto al proprio obbligo fiscale e non ha ulteriori problemi. Potrebbe esserci il caso del contribuente che, pur avendo fatto il modello 730, si accorga nel frattempo, si è accorto in questo periodo di tempo, di non aver inserito correttamente tutti i dati. Ecco che allora il modello unico può diventare una forma di correzione di un modello 730 non correttamente effettuato. Questo per quanto riguarda le tipologie di modelli. Ecco, ma c'è una figura di contribuente che invece è obbligata alla presentazione esclusiva del modello unico? E pensiamo a tutti coloro che svolgono delle attività, lavoro autonomo o impresa, quindi che tengono scritture contabili, sono certamente sempre e comunque obbligati alla presentazione del modello unico. E questa è, e possiamo anche trasmettere il messaggio di fondo generale è che tutti i contribuenti sarebbero tenuti alla presentazione, salvo, dicono le istruzioni, che non ricorrono delle ipotesi di esonero. E le ipotesi di esonero, quelle più comuni, sono i contribuenti che hanno solo una posizione di lavoro dipendente, magari il possesso della prima abitazione, della prima casa. Questi non hanno nessun obbligo fiscale, diversamente tutti gli altri insomma passano sotto il pettine del fisco. Chiamiamolo pettine, insomma, qualche volta. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per prenotare le vostre domande, oppure per scriverci 349 238 6666. E andiamo alla questione che ci pone Antonella da Brescia, che saluto. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno a tutti. E volevo chiedere gentilmente all'esperto se mi pare di aver letto che nell'ultima finanziaria, per la dichiarazione dell'anno prossimo, presumo, sia possibile detrarre dalle spese familiari il costo, che non è indifferente, dei libri di testo per i figli, ovviamente studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, che necessitano di questi libri. E oltre a questo anche la detrazione degli abbonamenti per usufruire dei mezzi di trasporto per andare a scuola, dagli autobus ai pullman di linea, eccetera. Grazie, devo avere Antonella. Conferma di questo, cioè per sarà tutto confermato dell'anno prossimo, perché benissimo, perché lei sta sostenendo quest'anno conservare la ricevuta fiscale o la fattura, cioè lo scontrino fiscale è sufficiente o bisogna richiedere fattura a questi negozianti, ai commercianti, ai rivenditori? Antonella, grazie, una bellissima domanda. Io immagino che peraltro è un tema questo assolutamente trasversale che riguarderà molte famiglie. Se non ricordo male, dottor Balcarenghi, sicuramente è stata confermata la detrazione del 19% per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Sui libri di testo? Sui libri di testo dobbiamo attendere, quindi possiamo dare una conferma per la detrazione per le spese per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, peraltro che si poteva già attivare anche nella dichiarazione questa che andiamo a trasmettere, quindi relativa all'anno 2009 e che presumo sarà anche riconfermata nel futuro. Con i libri di testo si è accennato a qualche cosa, però diciamo che in campo fiscale è bene, quando si parla di finanziaria, attendere il mese di dicembre, quindi l'approvazione della versione definitiva, che è quella che può dare effettivamente la conferma di alcune cose che magari durante il cammino sono emerse ma poi si perdono prima della conversione. Possiamo ricordare a quanto ammonta la detrazione e per quale tetto per il servizio di trasporto pubblico, dottor Balcarenghi? Allora, qui dobbiamo andare a vedere il quadro RP della dichiarazione dei redditi, che è quel quadro all'interno del quale possiamo andare ad inserire tutte queste particolari oneri e spese che possono dare un beneficio riducendo l'imponibile oppure invece un beneficio secco riducendo l'imposta. È la misura canonica che di solito è quella effettiva, è del 19%. Citato. Adesso stavo cercando perché no, mi sembra, guardi, ce l'ho io sotto, l'ho trovata nel frattempo. L'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale su un massimo di 250 euro. Quindi no, tra l'altro poi mi stavo chiedendo, per un abbonamento di questo tipo, che tipo di documentazione deve conservare la nostra Antonella? La spesa, cioè, va all'azienda di trasporto, non so neanche che tipo di ricevuta possano rilasciare, però insomma tutto quello che magari lo sapranno anche loro, Balcarenghi, non so. Sì, ma dal punto di vista del godimento degli oneri abbiamo una certa tranquillità, nel senso che l'importante è che la spesa venga certificata, che sia poi con una ricevuta fiscale, con uno scontrino o con una fattura, e queste modalità dipendono dal tipo di soggetto che rilascia il documento, ciò non va ad incidere sul beneficio del contribuente. L'importante è conservare una di queste tre tipologie di certificazione, certo. Ripeto, ricevuta fiscale, scontrino o fattura, vanno tutte bene. E per quello che riguarda i libri di testo aspettiamo ancora qualche settimana. Nel frattempo Antonella, visto che tanto questa spesa deve sostenerla probabilmente per i suoi ragazzi, tenga tutto ciò che è possibile tenere e poi vedremo appunto come si potrà utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi. L'unica, magari Balcarenghi, raccomandazione che possiamo fare ai nostri ascoltatori, l'unico problema qualche volta ce lo dà la carta chimica delle spese farmaceutiche che sosteniamo, delle spese appunto in farmacia, perché quella scolorisce con il tempo. Allora in genere il suggerimento è fotocopiate tutto, perché non vada persa l'indicazione sullo scontrino appunto della farmacia. È verissimo, sembra un'indicazione banale, invece preziosa, perché ricordiamo che il fisco riconosce sì lo sconto quando noi compiliamo la dichiarazione, però ha la possibilità di chiederci conto della correttezza dei calcoli e vuole che vengano esibite le pezze giustificative. Quindi se il nostro scontrino purtroppo perde il colore nel corso del tempo, è meglio fotocopiarlo. Infatti. Allora, sentiamo un po' Luigi da Roma. Luigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci dica tutto. Allora, le faccio subito una domanda. Prima i complimenti per la trasmissione, a lei particolarmente riesce a rendere chiari anche gli argomenti. Guardi, questo è il più bel complimento che mi potete fare, perché qualche volta rendere chiaro qualcosa che non riesco a capire neanche io, non le dico come mi aggrappo agli, come mi arrampico sugli specchi. Comunque grazie Luigi, ci proviamo insieme alla redazione di Salva Danaio. Ci dica. Senta, io ho dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi del 2008. La domanda è questa: posso utilizzare la scadenza del 30 settembre per rimediare a questa dimenticanza? Dimenticato in che senso? Lei intanto è un lavoratore dipendente, un libero professionista, autonomo. Sì, lavoratore dipendente. Vabbè, intanto l'azienda l'ha fatto per lei. Ha dimenticato nel senso che magari aveva qualche spesa da detrarre e non ha avuto modo di farlo. L'azienda le ha dato un CUD. Sì, mi ha dato il CUD, però siccome io l'anno scorso sono stato molto tempo fuori dall'Italia e non ho provveduto alla presentazione dell'unico. Benissimo, e allora vediamo un po' se si può rimettere in pari con il fisco, sia in termini positivi che negativi. Magari ha qualche cosa da versare e non è stato fatto correttamente, magari ha anche qualche cifra in ballo che gli deve essere restituita dal fisco. Valcarenghi. Allora, ecco, in questo caso possiamo ricordare che è vero che il fisco attende anche un anno per operare delle correzioni, però c'è un termine che non andrebbe mai dimenticato, che è quello di 90 giorni dalla scadenza originaria per la presentazione del modello. Qui facciamo marcia indietro, quindi ritorniamo all'anno 2008, il termine giusto per la presentazione della dichiarazione era il 30 settembre del 2009, quindi circa un annetto fa. Si poteva provvedere con ritardo nei 90 giorni successivi, quindi arrivando fino al 29 dicembre del 2009. Passato questo termine di 90 giorni, purtroppo la dichiarazione si considera comunque omessa e non può più essere presentata neppure tardivamente. Però per dare una parziale consolazione, spero, all'ascoltatore. No, anche perché ci sono delle circostanze che maturano totalmente in buona fede, quindi perché non viene data facoltà magari, ecco, a certi contribuenti di sistemare delle situazioni pregresse che sono appunto maturate magari non completamente per dolo, direi, insomma. Certo, una via d'uscita c'è e proviamo a presentarla subito. L'importante è che l'ascoltatore provveda a verificare se doveva pagare delle imposte per l'anno 2008. Se così fosse, la soluzione migliore per lui è pagare ora queste imposte, sia pure tardivamente. Insomma, quelle anche con ritardo il fisco le riprende volentieri. Quelle non sempre. Considera chiusa la dichiarazione, ecco, benissimo. Esatto. E così facendo, pagando le imposte dovute, la sanzione che verrà comminata qualora dovesse essere verificata questa violazione sarà limitata a 258 euro. Peraltro, se poi si pagano nei 60 giorni dalla contestazione, si riducono ancora un quarto. Mi permetto di dire, insomma, ecco, che si riduce davvero di poco la preoccupazione. Benissimo. E insomma, un buon commercialista, sicuramente un buon collega del nostro Giovanni Valcarenghi, magari su Roma sono sicura che le saprà indicare la strada giusta per così chiudere anche questa pendenza che forse preoccupa un po' anche il nostro ascoltatore. 800 24 00 24, potete continuare a prontare i vostri interventi, adesso sentiremo altri ascoltatori. Nel frattempo un altro ascoltatore di Roma, che però si chiama Antonio, ci scrive e ci chiede se è possibile, Valcarenghi, fare un ravvedimento a fronte di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo al 2005 e in questo caso chiede se è possibile rateizzare l'importo chiesto. Allora, ecco, diciamo subito che esiste una incompatibilità fra questi due termini che sono stati citati, il ravvedimento e l'accertamento, nel senso che il ravvedimento è uno strumento che... Una sorta di autodenuncia. Sì, esatto, ma deve essere posta in essere prima che il fisco abbia iniziato qualsiasi operazione di accertamento o verifica. Diciamo le sanzioni sono ridotte, ma a condizione che sia segnalata la posizione spontaneamente. In questo caso capisco invece che è già iniziata un'attività di accertamento e quindi i ravvedimenti operosi non se ne possono più porre in essere, anche perché l'anno 2005 è ormai trascorso da tempo il momento per la presentazione della dichiarazione, quindi consiglierei di verificare l'esito di questo accertamento. Nel momento in cui si dovessero chiudere tutte le operazioni che sono state poste, iniziate dall'Agenzia delle Entrate, sull'avviso di accertamento definitivo che verrà notificato si trovano tutte le possibilità di definizione anche in via breve, ne parlammo peraltro in un'altra puntata proprio qui di Salva Danaio, che consentono sia di ridurre gli importi delle sanzioni da pagare e anche di entrare in pagamenti rateali. Allora, Salva Danaio, entro il 30 settembre c'è la trasmissione telematica del modello unico all'Agenzia delle Entrate, un impegno che devono soddisfare soprattutto i professionisti, i commercialisti, ma che nel frattempo devono farsi anche una chiacchierata con i contribuenti interessati a tutto questo, perché magari c'è qualche aggiustamento da apportare alla dichiarazione dei redditi dei clienti seguiti. Allora noi su questi stamattina stiamo facendo attenzione, proprio perché così abbiamo deciso di ricominciare, Salva Danaio, proprio con un po' un vademecum su tutto ciò che ci aspetta da qui alle prossime settimane, insomma come sta avvenendo questa nostra ripresa dalle vacanze, ovviamente con bollette arretrate, impegni finanziari da rimonitorare attentamente, tutte queste cose qua. 800 24 00 24, stamattina con noi un esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore, che ha proprio scritto lunedì scorso sulle Sole i 5 passi da fare per gli ultimi controlli e le ultime verifiche ad un mese dalla scadenza per la dichiarazione, Giovanni Valcarenghi, e adesso rispondiamo a Simonetta dalla provincia di Como. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. La mia domanda è questa: io nel 2008, sono una lavoratrice dipendente, sì, ho ricevuto un premio di produzione tassato con tassazione separata, in quanto il mio reddito quell'anno era al di sotto dei 30.000 euro come previsto dalla legge, adesso esattamente l'importo non me lo ricordo. Sì. L'anno successivo lo stesso premio invece mi è stato tassato in maniera, diciamo, tradizionale, ordinaria, in quanto mi hanno sommato il premio dell'anno precedente come se fosse un reddito ordinario, in pratica. Io sapevo che la tassazione separata non faceva cumulo di reddito col reddito ordinario, anche perché avevo letto un articolo su Sole 24 Ore in cui così sembrava, insomma. Chiesto l'azienda invece mi dice che in realtà fa cumulo il reddito sia a tassazione separata che non, e pertanto così è. Io volevo sapere se è giusto o se è sbagliato, e se nel caso posso fare io una variazione presentando il modello unico. Benissimo, Simonetta, la ringrazio molto. Valcarenghi. Allora, diciamo che sono parzialmente giuste le informazioni che sono state date all'ascoltatrice Simonetta. Da parte dell'azienda, dice? Da parte dell'azienda. In questo senso, la tassazione separata è vero che è un meccanismo che scinde completamente i redditi che vengono tassati in via istantanea nella dichiarazione da quelli che seguono l'altro percorso proprio di tassazione separata. Forse invece ciò che gioca a suo sfavore per il godimento di questa agevolazione anche sull'anno 2009 è che il rispetto del limite dei famosi 30.000 euro di reddito da non superare per avere diritto a questa agevolazione fa riferimento a tutti i redditi che sono maturati nell'anno precedente. E allora nell'anno precedente purtroppo quel premio di produzione concorre alla formazione del limite. Quindi credo che l'esatta ricostruzione che è stata fatta dell'azienda corrisponda a questo ragionamento. Cosa vuol dire esattamente tassazione separata, come ha più volte ribadito Simonetta, Valcarenghi? Provo a renderlo con un esempio. È un meccanismo che serve per evitare che le aliquote IRPEF, che tutti noi sappiamo, aumentano man mano che cresce il reddito che dichiariamo di anno in anno. Certo, che ci fa finire in determinati scaglioni. Esatto, esattamente, colpiscano in maniera indebita dei redditi che si sono prodotti in un anno, ma certo, che teoricamente sono maturati in più periodi d'imposta. Allora, la tassazione separata assoggetta comunque ad IRPEF queste somme, ma le toglie dal conteggio generale del reddito imponibile dell'anno, di modo che si abbassi l'aliquota che viene praticamente applicata. Benissimo. La vorrei tradurre in una agevolazione, insomma, per diminuire l'aliquota IRPEF che viene applicata al reddito. Benissimo. Anna Maria da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, dottoressa Rossani. Complimenti sempre, perché è un piacere sentirlo ogni volta. Benissimo, grazie. Stamattina siete fin troppo dal gentili. Dal 2003, redditi 2002, io attendo un rimborso di un'addizionale comunale trattenutami due volte. Ah. Non è una grossa cifra, però sono 8 anni che io vado dal comune all'Agenzia delle Entrate. Poi con la situazione in cui si trova il comune di Roma, prima che li riprende Anna Maria, veramente dovrà prendere a sassate sulla porta, però non per scherzare sulla sua situazione, ma c'è poco da ridere poi peraltro. Sì. Aspetta da 8 anni. È stato nel 2006 dato l'ok per il pagamento, l'Agenzia delle Entrate gli risulta ma non lo fa, perché dice non ci sono i soldi. Il Comune di Roma non lo fa perché dice che forse non è lui che deve pagare. L'addizionale è comunale. Ultimamente ad aprile sono stata al Comune di Roma, mi è stato dato il nome di un difensore civico per potermi rivolgere a lui. Ma non è assurdo? Volevo sapere se altro esiste che una voce nel 7.30 in cui io posso defalcare dopo 8-9 anni questi pochi euro, insomma. Saranno arrivati a 100 euro. Ma sì, ma guardi, Anna Maria, fossero solo anche 10, però il principio è un po' sempre quello: quando il fisco deve restituirci qualcosa ci fa sudare veramente lacrime e sangue, se si sudano lacrime e sangue. Quando invece deve chiederci qualcosa, altro che se ci trovano subito e sono molto veloci nella richiesta e anche pronti anche a sanzionarci senza pietà. Valcarenghi, l'unica strada che può percorrere la nostra Anna Maria è proprio quella del difensore civico, addirittura della conciliazione, della giustizia alternativa? Mi verrebbe da dire che l'unica arma veramente a sua disposizione è quella della pazienza, perché innanzitutto è opportuno individuare il soggetto che deve materialmente erogare questo rimborso di questa addizionale, che nel caso specifico è sempre l'Agenzia delle Entrate, anche se l'addizionale si chiama comunale oppure altre addizionali regionali, ma transitando sempre dal modello unico trova come interlocutore fisso sempre l'Agenzia delle Entrate. E quindi presumibilmente, mi sembra di aver capito, lei ha già presentato questa istanza di rimborso, sì, ha già ottenuto il via libera, nel senso che nulla osta al pagamento, ma si attende la disponibilità delle somme. Ecco, la cosa da non dimenticarsi è di sollecitare periodicamente questo rimborso, ma sempre all'Agenzia delle Entrate. Il percorrere la strada del difensore civico credo che sia inutile in questo senso, perché nessuno, mi pare di capire, contesta il suo diritto, si sta solo dicendo stiamo attendendo i fondi per erogare i rimborsi. E dobbiamo ragionare in questo senso con l'Agenzia, là si procede per annualità. Ci sono disponibilità di fondi e man mano si provvede sulle singole annualità. Però Valcarenghi, l'unica mia perplessità è che è già passato qualche anno, non vorrei che Anna Maria arrivasse allo sfinimento o comunque maturasse il periodo oltre il quale poi non ha più diritto di esercitare questa rivendicazione. Ci sono 10 anni di tempo e quindi basterebbe, se ci fosse questo problema, presentare anche una semplice lettera in carta semplice, senza nessuna formalità, in cui si sollecita il rimborso delle somme per addizionale comunale dell'anno 2002, se non ricordo male, ricominciano a decorrere altri 10 anni di tempo, ma io spererei che la questione si risolva molto molto prima. Ma mamma mia, Ludovico da Brescia. Buongiorno. L'ultima domanda di oggi, grazie. Sì, veloce. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiedere, c'è pervenuto un documento fiscale per la deducibilità di alcuni costi successivamente alla data di presentazione ultima del 7.30. Sì. Volevo sapere, si può fare un 7.30 integrativo entro settembre, come ci hanno detto, presso il CAF, o bisogna fare il modello unico? Grazie Ludovico. Allora, questo è un caso tipico da manuale per unico, per il modello unico, Valcarenghi, oppure in questo caso per Ludovico vale il suggerimento delle 7.30 aggiuntivo, straordinario? Si può fare tranquillamente, si può percorrere la strada del 7.30 aggiuntivo, integrativo, che ha diciamo gli aspetti positivi della dichiarazione semplificata e del fatto che si va a transitare sempre tramite il datore di lavoro. Nulla vieta, perché le due ipotesi sono assolutamente alternative, si può presentare un modello unico entro il 30 settembre facendo emergere questo maggior credito. Mi sentirei di consigliare in questo caso il credito che emerge non venga richiesto a rimborso, perché i tempi sarebbero lunghi, ne abbiamo avuto una dimostrazione dall'ascoltatrice di prima. Infatti, ma la compensazione. Oppure venga rinviato all'anno successivo, quando rifacendo il nuovo 7.30 andrà a beneficiare del rimborso anche dell'eccedenza dell'anno 2009. E intanto Roberto ci scrive: rimborso anni 94, 95, 96, 97, 98 di mio padre deceduto, importo 490 euro, provate a fare ricorso. E credo che il suo sia, come dire, proprio un richiamo di scoraggiamento totale. Roberto, ci proviamo, quantomeno, voglio dire, facciamo valere i nostri diritti. E mi rendo conto che poi qualche volta sembrano talmente tanto delle guerre contro i mulini a vento. Valcarenghi, 5 secondi di tempo, abbiamo detto tutto, non credo, su questa scadenza del 30 settembre. Abbiamo un ultimo richiamino da fare ai nostri contribuenti? Sì, io mi permetterei di semplicemente di fare questo, di raccomandare a tutti, poiché c'è sempre un rapporto di fiducia con il professionista e nonostante questo, di spendere 10 minuti del proprio tempo per dare un'occhiata alla dichiarazione dei redditi, perché tante volte ci sono delle situazioni, penso a qualcuno che ha dei figli che erano a carico, poi invece hanno cominciato a lavorare, un trasferimento di residenza, che passano purtroppo in sordina e poi il fisco riesce invece a incrociarli e matura delle sanzioni. 10 minuti di tempo non è certamente edificante per guardare la propria dichiarazione, credo siano sempre spesi bene. Grazie, lei mi piace talmente tanto per la sua chiarezza che io la voglio richiamare assolutamente presto per renderci lieto anche il trattamento del tema della dichiarazione dei redditi. Valcarenghi, grazie, a presto, buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno. Noi di Salvadanaio torniamo domani e buona giornata a tutti.